Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori e facciamo in anticipo gli auguri di Natale anche a Paolo Legrenzi. Buonasera professor Legrenzi. Buonasera e buon anno e buon Natale a tutti voi. Grazie mille. Paolo Legrenzi è coordinatore del laboratorio di economia sperimentale Swiss and Global dell'Università Ca' Foscari di Venezia, ha scritto numerosi libri tra cui Credere, Neuromania, è un economista, possiamo dire psicologo economista? Tutte e due le cose. E con noi questa sera per parlare del suo ultimo libro, Perché gestiamo male i nostri risparmi, edito dal Mulino. Ecco, un libro che parte con una confessione, possiamo dirlo, dato che lo scrive esplicitamente nella prima pagina: da poco ho compiuto 70 anni, dice il professor Legrenzi, e racconta una piccola storia di bambini e di noci di un tempo passato. Possiamo cominciare da qua? Certo. Lì racconto perché in fondo, avendo compiuto per l'appunto 70 anni, anzi adesso in questo momento 71, mi sia sempre, fin da piccolo, posti i problemi che racconto anche in questo libro. Partiamo dalle noci. Quando ero bimbo, sui 10 anni, nostro padre, forse per addestrarci al ragionamento economico, essendo noi ghiotti di noci, alla fine del pranzo ci lasciava, era mezzogiorno, ci lasciava questa alternativa: o prendevamo 4 noci senza garanzia o prendevamo 2 noci con garanzia. Mio fratello pigliava sempre 2 noci con garanzia. Cosa voleva dire avere 2 noci garanzia? Voleva dire che se una noce era guasta, mio fratello la poteva rimpiazzare, così era sicuro di mangiare 2 noci. Lei invece ne prendeva 4, senza, sperando che fossero una sola guasta, e quindi ne mangiava 3. Esattamente. Avevo notato che sui tempi lunghi conveniva prenderne 4 senza garanzia. Se ne mangiavano un po' di più di 2 sui tempi lunghi, delle volte si era scalognati, c'era solo una, ma molte volte si riusciva a mangiarne 3 e qualche volta, rarissima, anche 4. Chiesi quindi a mio fratello Giovanni, perché tu scegli sempre 2 con garanzia? E lui mi spiegò una cosa, secondo me molto illuminante, e che molti anni dopo conferì, tra l'altro, il premio Nobel al psicologo, il premio Nobel economia Kahneman, che il dolore di avere una sola noce per lui era molto maggiore del piacere di passare da 2 noci a 3. E che quindi preferiva avere 2 noci di sicuro, perché le rare volte che in realtà si mangiava solo una noce, o al massimo neanche una, perché non tutte e 4 guaste, ma era rarissimo, il dolore della perdita era molto inferiore, a parità di quantità una noce, del piacere della vincita, cioè una noce in meno gli faceva più dolore di quanto gli facesse piacere una noce in più, quindi ne pigliava 2 di sicuro. E questa è una prima regola del risparmio. Questa è una regola molto importante del risparmio. Si soffre di più perdendo 10 che non guadagnando 10. Perché questa regola, questa che è scolpita nella nostra testa in maniera così profonda che anche le scimmie, come racconta Walter City nel suo ultimo romanzo che ha preso il premio Strega, racconta questo esperimento che io stesso racconto, e cioè che anche per le scimmie funziona questa stessa regola, quindi una cosa molto lontana nella specie umana, però purtroppo andando molto vicini, cioè agli ultimi 50 anni, questa regola fa sì che noi investiamo molto male i nostri risparmi. Perché? Perché in realtà non accettiamo quel minimo di variabilità, quella che i tecnici chiamano volatilità dei mercati, e per cui rifugiamo dai mercati convenienti come quelli azionari per rifugiarci in mercati che oscillano molto poco. E ancora peggio, questo proprio oltre al di là di mio fratello, noi pensiamo, adesso non più negli ultimi anni perché le controindicazioni sono state troppe, pensiamo che la casa sia per eccellenza la miglior forma di risparmio, perché le case non scendono mai. Ed è vero che in effetti da un punto di vista psicologico gli immobili sono la migliore forma di risparmio, almeno prima della crisi, adesso degli ultimi 5-6 anni. Qualcosa è cambiato, sì. Le cose sono cambiate, ma prima tutta la mia generazione, visto che appunto ho 71 anni, si erano formate questa profonda convinzione che ha avuto un effetto devastante. perché oggi i risparmi italiani, che sono 9.000 miliardi, unico paese di quelli industriali, sono messi 2/3 nelle case e 1/3, diciamo, non in immobili, e non solo, ma il 90% è messo nel nostro paese, non perché noi siamo patriottici, ma semplicemente perché non sappiamo gestire i nostri risparmi. Ecco, lei parla appunto nel suo libro di paure, pericoli e paradossi del risparmio, un risparmio in cui prevalgono più le preoccupazioni, il tentativo di mettersi al sicuro, che non un po' un rischio, la volontà in fondo di giocare sul futuro. Non sarebbe un grande male, perché in fondo la paura è anche prudenza, quindi nella vita avere un po' di paura è una cosa sana. Il grande problema del risparmio, purtroppo, però, è che abbiamo paura delle cose che non sono pericolose, mentre non abbiamo paura delle cose pericolose. Per esempio, non abbiamo paura della mancata diversificazione, tale per cui gli italiani, se io avessi tutti i risparmi italiani, avrei il 90% di risparmi legati a questo destino, al destino del mio paese, che in un'ottica globale è ben poca cosa. Quindi non ho avuto paura di fare una cosa molto rischiosa, cioè di non diversificare i risparmi. Viceversa, ho paura di cose che invece rischiose non sono. Per esempio, delle temporanee discese dei mercati azionari, tale per cui quando gli italiani, la stragrande maggioranza italiana, gestisce da sé i propri risparmi, gravissimo errore, bisognerebbe andare come in altri settori da un professionista, da un medico, non è che ci curiamo tutti da noi, certo, le nostre malattie, spero. Ecco, cosa succede? L'effetto di tutto ciò? L'effetto di tutto ciò è che un paese che almeno la mia generazione è stato così dedito al risparmio, poi ha messo così male il risparmio. È stato un fallimento anche la mia disciplina, perché guardi che questo è un libro di 100 pagine in cui non sono nozioni trascendentali, Cioè se queste nozioni fossero state trasmesse, noi oggi saremmo molto, soprattutto i nostri figli, perché noi, non so, lei quanti anni, voglio dire, io quelli che hanno 70 anni, ecco, però... Beh, più o meno ci siamo, professore Renzi, ecco. Manca poco, ecco. Ecco. Va bene, la grande differenza, il grande problema per cui ho sentito l'impulso a scrivere questo libro è che noi, in fondo, abbiamo risparmiato abbastanza in questo paese, non dico adesso si risparmia ancora 7-8% del reddito, ma negli anni 70, quando io ho iniziato a risparmiare, la famiglia media italiana risparmiava 1/4 del suo reddito, capisce? E quando risparmia così tanto, perché generazione dopo generazione siamo diventati più ricchi da quando io sono nato, che lei i risparmi li metta bene o li metta male non fa una gran differenza. Purtroppo invece oggi, in cui i nostri figli e nipoti, sono preso da queste future generazioni, risparmieranno molto meno, per i motivi che ormai vengono sempre più illustrati nei dibattiti televisivi e giornalistici, gestire bene gli risparmi che noi riteremo è molto importante. Ecco ciò che mi ha spinto a scrivere il mio libro. Indubbiamente, però ecco, è un libro che, appunto, parlando di risparmi, parla di futuro. Il futuro è una di quelle cose in cui è facile fare previsioni, ma è molto difficile indovinarle. Allora, sotto questo profilo possiamo dire che negli ultimi anni è diventato ancora più difficile del passato pensare alle prospettive future, agli andamenti dell'economia, agli andamenti finanziari. Infatti, la vera risposta nel futuro è la frugalità. Adesso, non per fare propaganda ai miei libri, ma adesso ho appena finito di scrivere un libro che uscirà l'anno prossimo, la frugalità, perché la vera risposta non è lei deve risparmiare di più, questo è facile, cioè non puoi dire a uno devi guadagnare di più, devi risparmiare di più, devi diventare, questa è una forma di violenza sciocca e così, no, quello che uno ha sotto il suo controllo è fare una vita molto più frugale. Quando in realtà non sarà più così facile risparmiare in futuro, e già oggi non lo è, la vera risposta sono non la povertà, perché la frugalità non è la povertà, la frugalità è una scelta, la povertà è una costrizione. Certo, la frugalità è sapersi accontentare, di essere... è quella che ha creato i risparmi, quei 9.000 miliardi di cui abbiamo testé parlato. Ecco, è un risparmio che spesso, che qualche volta si è volatilizzato sotto l'effetto dei crolli di borsa o dello spread magari, ma allora guardando poi in avanti al 2014 e 2015 dobbiamo comunque guardare comunque in avanti, perché il futuro poi in fondo è quello che noi costruiamo. Se vogliamo dare un breve consiglio per gli acquisti, dato che parliamo di risparmi e parliamo del perché abbiamo gestito male i nostri risparmi. Si possono dare due tipi di consigli. L'uno, che sarebbe un po' da professore ed è sbagliato, anche se ho scritto un libro che cerca di dare questo consiglio, è di imparare a non fare quegli errori macroscopici che hanno, diciamo, molto intaccato i nostri risparmi. Però sono diventato con l'età scettico su questo. L'altro consiglio invece, che è molto più pratico e semplice, come quando si rompe l'impianto idraulico, non cercare di riparare tu come ho fatto io facendo un guaio l'altro giorno, o non cercare di riparare le tapparelle, le finestre e così via, l'altro consiglio è di andare da un professionista. Da un professionista che sappia fare questo mestiere, perché anche questo è un po' tranquillizzante rispetto a fare da sé. Ma questo vuol dire anche avere fiducia in un sistema finanziario, in un sistema bancario che merita fiducia? Beh, non c'è dubbio, cioè, perché anche qua, vedi, è lo stesso paradosso di prima della paura e del pericolo. Noi non abbiamo avuto fiducia in cose in cui dovevamo avere meno fiducia, per esempio mettere tutti i risparmi in immobili, che sono risparmi destinati a calare di valore. Certo. E viceversa avere più fiducia nel sistema bancario finanziario. Però 4A che bisogna capirle, perché per non dico fare da sé, perché uno non è che deve curarsi da sé, ma se uno è malato un pochino, capire che male ha, io per esempio devo tenere una dieta, fa bene a farlo, fa bene a capire un po', cioè non affidarsi ciecamente, certo. Capisce? Ecco, affidarsi ciecamente anche qui non è buono, quindi affidarsi ma aver fiducia nel futuro, ma capire qualcosa. Avere fiducia e fare i passi che bisogna fare anche seguendo i consigli di chi se ne intende. Questa è l'indicazione. Grazie a Paolo Legrenzi, professore, psicologo e coordinatore del Laboratorio di Economia Sperimentale dell'Università Ca' Foscari. Abbiamo parlato del suo libro Perché gestiamo male i nostri risparmi, edito dal Molino. Sono 162 pagine per 12 euro. Grazie professore Legrenzi, buon Grazie Natale e buon anno. Così come facciamo gli auguri anche a Pietro Lacorte in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buon Natale.